Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Word has reached my ears of this Aragorn, son of Elthorn, and I tell you now, I will not bow to this ranger from the north. Quando ero piccolo, per un qualche motivo, io mi ero convinto di essere un appassionato di Formula 1. Mi ero convinto di essere un tifoso del pilota James Hunt. che divenne campione del mondo nell'anno che Niki Lauda fece un grave incidente, non corse la metà dei Gran Premi. Mi sembrava bellissimo il fatto che Hunt, il suo nome in italiano, sarebbe stato Giacomo Caccia, e raccoglievo gli articoli su di lui, tagliavo le fotografie dagli autosprint che comprava mio fratello e anche dalle altre cose come gli Io proprio io che c'erano dentro una rivista di fumetti che si chiamava Il Monello. Mi ero convinto che mi piacesse tutto di Hunt, anche per il fatto che aveva i piedi così lunghi che doveva portare delle scarpe senza punta e doveva guidare tutto il Gran Premio con le dita dei piedi tirate indietro, come se tenesse i pugni chiusi, ma dei piedi. Dopo qualche anno mi sono accorto che a me l'automobilismo mi fa venire sonno. Questo era ancora l'incipit di Noi la faremo vendetta di Paolo Nori. La seconda parte di Eclettica, quella che vi state ascoltando aperta dal estratto del terzo film della serie del Signore degli Anelli, in pratica una settimana dedicata a ciascuno dei tre episodi, quindi con questa chiudiamo e poi passeremo su tutt'altra pellicola. Poi ci siamo ascoltati un bel disco che arriva a noi dall'Inghilterra, per quanto riguarda l'etichetta che è la Indipendiente, però a tutti gli effetti arriva dalle terre del Mali, se vogliamo trovare una collocazione geografica per un popolo, quello dei Tuareg, che poi non è che siano molto legati ai confini che dividono le nazioni. A Man in Man, ovvero sia Water is Life, il titolo dell'album che ci arriva appunto Dal deserto Tina Riwen, il nome della band, Clara Shell, il titolo del brano che ci siamo ascoltati in apertura di Eclettica. E poi, con un salto, siamo arrivati all'Islanda di Benny Hem Hem, il nuovo disco per la More Music dal titolo Kayak, da cui noi ci stiamo ascoltando un brano che ha per titolo un insieme di consonanti e di vocali per me assolutamente impronunciabile, quindi vi rimando, mi viene gioco facile rimandarvi alle playlist di Eclettica o su myspace.com/eclettica oppure direttamente nella vostra casella di posta nel caso siate iscritti alla lista nera. Continuiamo a volare nei cieli d'Europa e arriviamo alle Puglie, dove suonano i Muzak, dove fanno musica i Muzak. In Case of Loss, Please Return To, è questo il titolo del loro album dal quale ci stiamo per ascoltare Oxygen, Opiates and Other Pale Ideas. The enemy thinks you have the ring. Tempo fa, un lettore che mi aveva sentito leggere mi aveva scritto che io leggevo un po' come uno scrittore nato a Reggio Emilia. Io gli avevo risposto, gli avevo scritto che quello scrittore nato a Reggio Emilia leggeva con l'intonazione di Reggio Emilia, io con l'intonazione di Parma, che eravamo molto diversi. Lui mi aveva risposto anche un po' offeso, come se l'avessi preso in giro, come se queste distinzioni fossero delle distinzioni di gente che spacca il capello in quattro, di non fare il furbo, che l'Emilia poi, dopo, è tutta la stessa faccenda. Questo era l'incipit di Noi la farem vendetta. Anche questo è l'incipit di Noi la farem vendetta di Paolo Nori. Here comes the host. decide, you have to abide. So happy hands are in the air, oh no. So happy hands are in the air. Vi state forse chiedendo perché questa settimana c'è un incipit seriale, per così dire? Beh, una spiegazione c'è ed è legata a quanto detto e anche quanto trasmesso settimana scorsa, però mi prendo ancora qualche minuto di eclettica prima di parlarvene, anzi, ve ne parlerò all'inizio della terza parte, esattamente a metà settimana. Per il momento vi ricordo che vi siete appena ascoltati Benji Ferry, ma prima avevamo reso omaggio ad una band che ha deciso di tirar giù la saracinesca. Sto parlando di Funkstörung, che escono con un disco per la K7 del titolo Appendix, che è un disco consolatorio, per così dire, una conclusiva raccolta di remix che assembla materiale raro, B-sides e brani inediti, tra cui remix come quello dei Ravionettes che noi ci siamo ascoltati in eclettico, ovvero sia Love in a Trash Can. Che cosa succederà del duo Michael Fakesh e Chris De Luca, che erano assieme dal 1996? Per ora si sa che Michael Fakesh già lavora su album solista che dovrebbe uscire sempre su K7 Records dopo l'estate 2007. Per quanto riguarda Chris De Luca al momento non so nulla. 23 minuti e passa di seconda parte di Eclettica, quindi direi che siamo quasi arrivati alla sua chiusura, anzi siamo arrivati alla chiusura con il prossimo brano, quello che vi sto per annunciare, un'eclettica che in queste settimane è molto francese, c'è molta musica francese, di artisti francesi o di artisti che fanno di base in Francia nelle ultime settimane, se ci avrete fatto caso. Non c'è nessun motivo particolare se non un piacere all'ascolto e poi un piacere di poter condividere questi ascolti con voi. Il disco in questione è un disco Bungalow, lui è un artista di lunghissima data, io stesso però l'ho conosciuto grazie a questo disco Bungalow, e contiene al suo interno delle tracce molto molto piacevoli, direi divertenti, come anche l'approccio della grafica di copertina. Si chiama Catherine con la K e la seconda parte di Eclettica è appannaggio nella sua chiusura con 100% VIP. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Oh, let's